sì, è molto bello aver appena pagato l'IMU, sapendo che i consiglieri del Lazio, sempre loro, hanno ancora 23 autisti a disposizione. E mi troverai seduto sulla mia torpedo blu, sulla mia torpedo blu, sulla mia torpedo blu.